altro viaggio e al capolinea. Però tutto il resto continua, accade ogni anno, è il mese di giugno, ma stavolta resterà un segno. Quest'anno è un mondo che crolla, ti trovi alla fine della via, la tua mano sulla mia spalla, la vorrei prendere nella mia, una lacrima dai tuoi occhi verdi, come sempre tu non menti, quella lacrima che non dimenticherò. O felicità, sì lo so, me lo dici proprio tu con parole belle, perché con quel tuo fare schietta e disinvolta mi fai felice ancora una volta. Anche se triste non sarò più il tuo insegnante, e non lo dici come fosse niente, e non ci sarò più per te chissà, ma io spero che così non sarà.